bordo campo di Dario Ricci. Diario Mondiale. Stadio Nahoe Iscola. Così c'è scritto su una cartolina che mi è capitata tra le mani qualche giorno fa in un ristorante a Rio de Janeiro, nel quartiere di Santa Teresa, uno dei più esclusivi, diciamo così, pittoreschi della città. Lo stadio non è una scuola. È una cartolina che di fatto propaganda quelle che sono le idee del movimento contrario a questa Coppa del Mondo che è ormai agli sgoccioli. La salute è una priorità, c'è scritto ancora su questa cartolina, che ricorda come quella brasiliana sia stata la Coppa del Mondo più costosa della storia. 30 miliardi di reais che su per giù equivalgono a oltre 2 milioni di classi scolastiche brasiliani e a quasi 97 mila pronto soccorso. Insomma, tanto per parlare di scuola e sanità, che sono due delle esigenze primarie di questo paese. Ebbene, allora torniamo, rimaniamo nel Brasile che sta per salutare la Coppa del Mondo, e lo facciamo con un ospite davvero particolare, con un'italiana che vive in una delle favele principali più importanti di Rio de Janeiro da tanti anni e dove in quella realtà sviluppa dei progetti davvero importanti, di cui oggi parliamo qui a Bordo Campo Diario Mondiale. Benvenuta in diretta telefonica da Rosigna, la principale favela di Rio de Janeiro, a Barbara Olivi. Grazie Dario, buongiorno a tutti e buona estate a tutti voi. Grazie Barbara, sento una voce bella, squillante, ma ecco, questa cartolina che ti ho descritto un po' a te e ai nostri ascoltatori è un po' anche la cartina di tornasole di quello che è stato questo mondiale, no? Le grandi partite, lo spettacolo dei campioni, ma un Brasile che forse a partire dal lunedì dovrà far di nuovo fronte e conto con i suoi problemi, che a Rosigna sono particolarmente evidenti, no? Beh, oddio, in realtà in tutto questo periodo non ce li siamo mai scordati, perché la necessità della sopravvivenza è impellente e lo è sempre e comunque. Direi che nel caso delle partite di per sé sono stati momenti di sollievo, anche perché presumo sappiate che lo Stato ha dichiarato feria, per cui le vacanze invernali sono state anticipate di un mese, in modo tale che le prime 3 settimane di Coppa non c'erano le scuole aperte, per cui è stato un periodo di vacanza, e in più tutte le volte che c'era o il gioco al Maracanà o la partita del Brasile era una giornata intera o mezza giornata di ferie. Insomma, è stato sicuramente un periodo, diciamo, di vacanza e di sollievo appunto dalla crudezza della vita quotidiana, però la necessità è quella. Rosigna, lo ricordiamo, favela da oltre 150.000 abitanti, da un paio d'anni pacificata, no? Secondo questo termine che, permettimi Barbara, indica di fatto un equilibrio precario tra la legalità, che in Brasile viene declinata secondo modi del tutto particolari e diversi da area ad area, a quello che invece sul territorio era e per alcuni aspetti è drammaticamente ancora è il dominio del narcotraffico, no? Quindi pacificata sì, ma con tutte le virgolette del caso questa favela. Sì, non solo, io ne aggiungerei anche un'altra di virgolette, che come si fa a concepire un processo di pacificazione quando lo stesso avviene con 3.000 marines dell'esercito, fortemente armati, con paracadutisti, con panzer blindati, elicotteri blindati? Allora ci si domanda, che pace è questa se portata avanti comunque con armi da fuoco? Non scordiamoci che le armi ammazzano, e comunque la pacificazione avviene dopo 40 anni di assoluta noncuranza del governo. Cioè, se il narcotraffico esiste, si è insediato nelle favele, se perché al governo ha fatto comodo, perché il governo ci ha guadagnato, perché l'ultimo capo arrestato qua della Rosigna, Nem, ha confessato che metà degli introiti andavano per la corruzione agli organi di Stato. Ricordiamoci che questa favela vendeva 800 kg di cocaina al mese. Insomma, numeri che danno l'idea di quello che Rosigna era e per alcuni aspetti ancora è, in una realtà che tu conosci bene, Barbara, perché è dal 2002 che di fatto hai dato vita a questa associazione, Il Sorriso dei Miei Bimbi, che prova un po' a rovesciare questo che è il mondo capovolto di Rosigna, no? Prova un po' a rimandarlo per il verso giusto, no? Beh, oddio, fondamentalmente si tratta di un'associazione che ha come obiettivo educazione e cultura, il tutto però dato a bambini, ragazzini, preadolescenti, giovani, il tutto dato con dignità, con rispetto e con molto amore, perché comunque non scordiamoci che sono nicchie sociali dove l'abbandono familiare è molto comune, dove per la necessità della sopravvivenza, quindi dell'andare a lavorare e anche per ignoranza, il genitore non sa giocare con il bambino, non sa dedicargli tempo, piuttosto va al bar con gli amici, ma non è nella sua cultura quella di dedicare tempo ai bambini. E quindi ecco che lì si inseriscono le nostre strutture, dove la nostra pretesa è soprattutto oltre a quella di dare un futuro a queste generazioni che studieranno, che hanno studiato e studieranno con noi, però dare momenti di vera infanzia. Sistema fognario, acqua corrente, illuminazione pubblica, educazione, sanità, rispetto dei diritti umani e di cittadinanza, rispetto di condizioni igieniche e sanitarie, queste sono tra le tante cose che mancano ancora oggi a Rosigna. Ma ha fatto male nell'attraversarla con te questa favela qualche giorno fa, Barbara, vedere un contrasto che veramente mi ha ferito. Una scuola intitolata ad Ayrton Senna, presente lì a Rosigna, e che pure ci ricordavi è una delle peggiori del Brasile, no? Mi è sembrato una contraddizione stridente fra l'impatto emotivo, l'amore che il popolo brasiliano aveva per questo grande campione di cui quest'anno abbiamo celebrato i 20 anni della scomparsa, e invece il livello qualitativo di quella scuola, come tante altre in Brasile, è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze educative dei giovani. Allora, in realtà non possiamo neanche generalizzare, perché ci sono delle strutture che in certe parti del Brasile funzionano bene. Il panorama del sud del Brasile è completamente diverso dallo stato di Rio de Janeiro, che io analizzerei proprio di per sé e in modo a sé stante. In effetti la Rosigna è la favela, considerata la favela più grande del Brasile, è in una zona di facilissimo accesso, è davanti agli occhi di tutti, è considerata una delle favele di condizioni di vita migliori, eppure ha delle nicchie di povertà e delle nicchie di abbandono spaventose, come appunto la scuola che tu hai citato. Questa scuola è sotto gli occhi di tutti, è lungo la strada principale, eppure davanti all'ingresso della scuola c'è lo scolmatore della fogna di tutta la di tutta la comunità. E quindi è un messaggio neanche tanto sublimato: studia tanto, cacca sei e cacca rimani. Devo dire che attraversarle insieme, quei vicoli, è stata un'esperienza incredibile. Dopo mezz'ora quasi non si riusciva più a respirare. Ecco, scusa, un piccolo dettaglio. Considera che ci sono studi psicologici per i quali è considerato che bambini nati, cresciuti nelle condizioni che tu hai visto, cioè su un lungo fogna dove imperano i miasmi giustamente della stessa, e quindi ti si impregna la pelle, i vestiti, il cervello, ecco, chi nasce, chi vive in queste condizioni riceve proprio delle menomazioni psichico-mentali, cioè perdono proprio qualità intellettive del proprio cervello. Che calcio c'è a Rosigna, Barbara? Questi bambini riescono a gioire e a giocare a calcio, l'abbiamo visti, giocare nei posti più impensati, basta un metro quadro e subito diventa un campo di calcio. Esatto, sì, si riesce a gioire, nonostante le condizioni, si riesce a gioire, perché questo è il carattere del popolo brasiliano. La vita vince sempre e comunque sulla morte, vince sempre e comunque sulla crudeltà della vita, sulla crudezza della vita, e quindi i segni della realtà possono essere cancellati solo come? Con il sogno, con lo sport, con l'attività, con la vita comunque, e calcio e vita, anche perché per giocare, come l'hai appena detto, detto tu, ci vuole poco, si gioca a piedi scalzi, con una palla che può essere fatta da sacchetti di plastica messi insieme o un pallone forato, e si gioca, e il gioco appunto comunque attiva chiaramente la circolazione, fa bene al corpo, fa bene alla mente, e in più comunque alimenta un sogno, il sogno, perché no, un futuro di diventare un crack di football. Ti chiedo ancora, Barbara, Coppa del Mondo che è ormai agli sgoccioli, quale sarà l'eredità di questo mondiale? Difficile dirlo per il Brasile, ma per la gente anche di Rosigna e per un popolo che in fondo ha provato a vivere questa come una grande festa. Cosa rimarrà da domani? Sinceramente un conto molto caro da pagare, perché tutte le strutture pubbliche, tutti gli appalti pubblici sono stati razziati, c'è stato un'indecenza incredibile di soldi spariti, di costi eccessivi, la città è diventata molto cara, la vita in favela è aumentata, gli stadi non sono più accessibili, i trasporti pubblici non funzionano, per cui purtroppo l'eredità sarà veramente cara da pagare. Non scordiamoci che per noi non sarà finita, perché da qua a 2 anni ci saranno le Olimpiadi, e quindi tutta questa farsa continuerà per altri 2 anni. Insomma, amici di A Bordo Campo, Diario Mondiale, lo sentite, la viva voce di Barbara Olivi da Rosigna, parecchio arrabbiata per quello che di questa festa non è andato per il verso giusto, e con cui da domani bisognerà continuare a fare i conti, svaniti i fuochi d'artificio del Maracanà. Barbara, io intanto ti ringrazio per essere stata nostra ospite, ma soprattutto invito anche i nostri ascoltatori a andare su internet e trovare il sito appunto di Il Sorriso dei Miei Bimbi, basta digitare appunto Il Sorriso dei Miei Bimbi più Rosigna e il sito appare evidente ai vostri occhi, per trovare tutte le informazioni non solo sull'associazione ma soprattutto su quello che Barbara e i suoi collaboratori, la sua famiglia fanno in quei vicoli, e che rappresenta forse il lascito più bello che possiamo dare al Brasile. Barbara, calcisticamente non abbiamo fatto una gran figura, però diciamo che tu ci riscatti tutti, eh? Beh, sì, ragazzi, viva l'Italia, viva il Brasile, e comunque per tutti voi che verrete qua in Brasile è importante che sappiate che il Brasile non è soltanto mulatte, tette o samba, ma è un paese che lotta veramente quotidianamente per la sopravvivenza, e questa lotta la vince col sorriso sulle labbra, per cui abbiamo questo da imparare da loro. Rio de Janeiro è una città meravigliosa, ha come slogan proprio Cidade Maravilhosa, così è, per cui venite a conoscerla, venite a goderla, ma soprattutto venite a rispettarla. Direi che a questo messaggio non si può aggiungere altro se non un grande abbraccio e un buon sorci. Un abbraccio anche a tutti voi, grazie, a presto, ciao Dario. A Bordo Campo, Diario Mondiale. Ultimi spiccioli di Coppa del Mondo in Brasile, e allora qui a Bordo Campo, Diario Mondiale, vogliamo chiudere ragionando un po' su cosa ha significato e su cosa significherà questa Coppa del Mondo per il Brasile, non solo per il Brasile del calcio, che come sappiamo bene ha ricevuto una fortissima delusione da questa Coppa, ma soprattutto per il paese. Lo facciamo oggi con un ospite che ha realizzato proprio in queste settimane un libro davvero importante, Calcio e dittature, una storia sudamericana, edito da Sedizioni, un volume che analizza il rapporto tra calcio e potere, tra calcio e dittatura, non solo in Brasile ma in tutto il Sud America, visto anche come laboratorio politico nel suo intreccio, a volte virtuoso, a volte perverso con il potere politico. Allora, benvenuto oggi a Bordo Campo a Sergio Giuntini, docente di storia dell'educazione fisica presso l'Università di Roma Tor Vergata. Benvenuto, professor Giuntini. Buongiorno. Posso chiamarti Sergio, visto che siamo amici? Certo, su, dai, certo. Allora, Sergio, innanzitutto complimenti per questo Calcio e dittature. Ebbene, sappiamo che questo rapporto in Brasile ha radici profonde, no? Proprio per la decennale dittatura militare che ha caratterizzato il paese e anche il suo rapporto con le grandi squadre di calcio, no? Sì, in Brasile il rapporto tra calcio e potere è dalle origini, insomma, non si può separare la storia di questo paese dall'uso, dalla strumentalizzazione che i vari governi che si sono succeduti al potere hanno fatto del calcio. A cominciare, diciamo, da prima della Seconda Guerra Mondiale, con la dittatura di Getúlio Vargas, il dittatore che per primo colse il grande valore che per la cottura del consenso poteva avere questo gioco, che è, come dire, è la massima espressione della cultura brasiliana insieme alla musica, al carnevale. E poi soprattutto nel periodo che va dal 65 all'85, cioè alle cinque dittature dei cosiddetti gorillas, quando il calcio brasiliano forse ha raggiunto il suo apice da un punto di vista dei risultati tecnici ottenuti, e soprattutto durante il governo del generale Emilio Medici, corrispondente alla vittoria del 70, che ce la ricordiamo bene sia per Italia e Germania ma pure per quella finale in cui ce ne fecero ben quattro. Certo. Medici sfruttò, come dire, appieno il calcio, facendo soprattutto di Pelé il massimo rappresentante del calcio brasiliano nel mondo, un suo vero ambasciatore, insomma. Tra l'altro ricordiamo quella vittoria del 70 attecchisce proprio in questo terreno, in questo scenario che tu descrivevi, proprio perché il commissario tecnico, no, di quella nazionale, che aveva portato quella nazionale trionfalmente a quel mondiale, perse il posto proprio alla vigilia della competizione messicana, no? Sì, Saldanha fu commissario tecnico della nazionale brasiliana per 404 giorni. Venne esonerato nel marzo del 70, dopo che aveva vinto con la nazionale tutte le eliminatorie mondiali e soprattutto aveva ottenuto una vittoria di grande valore tecnico durante la tournée europea preparatoria ai mondiali in Inghilterra, contro l'Inghilterra, quando l'Inghilterra era campione del mondo, era ancora, come dire, la grande Inghilterra del calcio. Non quella che abbiamo battuto a Manaus, volevi dire. Allora. Esattamente. E Saldanha, come dire, venne allontanato per due motivi. Perché in gioventù aveva aderito al Partito Comunista Brasiliano, ma soprattutto perché aveva una grande, come dire, era una persona di grande integrità morale, e siccome il governo Medici intendeva imporgli anche le formazioni, lui rilasciò una dichiarazione scioccante dicendo che quando il Presidente della Repubblica Brasiliana nominava i suoi ministri, non aveva nessuno che glieli consigliasse, quindi lui non si faceva consigliare da Medici i giocatori della schiena. Ma sai che questa è una storia che mi pare di aver sentito declinata anche alle nostre latitudini, e tu ricorderai bene, ma vabbè, dai, non ci ritorniamo. Diciamo, legame con la dittatura, legame anche con la democrazia, no? Molti ricordiamo la democrazia corinziana, sì, no? Certo. Quella straordinaria maglietta, certo, indossata dal compianto Socrates, che invitava al voto, certo, per la democrazia. Certo, no? Certo. Però prima di Socrates, un altro calciatore brasiliano ebbe un grande coraggio manifestando le sue opinioni. È Reinaldo, che fu centravanti della nazionale brasiliana ai mondiali del 78, che durante la tournée europea, prima di quei mondiali, giocando a Milano una amichevole con l'Inter, rilasciò alla stampa italiana e poi successivamente in Francia delle dichiarazioni molto forti, nel senso che lui disse proprio espressamente: io non sono, come dire, un estremista, non faccio politica, ma da brasiliano ho la verifica quotidiana del fatto che nel mio paese non c'è libertà e non c'è democrazia. Disse queste cose, come dire, rischiando molto, ma evidentemente era talmente un calciatore di livello che non ebbero il coraggio di toglierlo dal ruolo di centravanti della nazionale brasiliana. Tra l'altro, l'allenatore nel 78 della nazionale brasiliana è Coutinho, capitano dell'esercito, sposato con la figlia di un generale. Il presidente della Federazione Brasiliana in quegli anni era Heleno Nunes, ammiraglio e presidente del partito Arena, cioè del partito di governo a Rio de Janeiro. E quel periodo del calcio brasiliano è stato chiamato del calcio militarizzato, non solo perché era collegato al regime, al potere, ma perché fu un periodo in cui si era cominciato a mettere in discussione le caratteristiche spontaneistiche del calcio brasiliano, la fantasia, le finte, il dribbling, e lo si voleva in qualche modo uniformare al calcio europeo, cioè rendendolo più atletico, più aerobico, potremmo dire. E quel mondiale 78 fu una sconfitta per il calcio militarizzato. E infatti la nazionale dell'82 tornò a giocare con libertà, poi perse quella partita. Per fortuna, dai, meno male che poi chissà, adesso sarà un dibattito ancora attualissimo, visto come è andata a finire con la Germania, no? Infatti, quindi siamo veramente sull'attualità. Beh, come sentite con Sergio Giuntini, le storie da raccontare sono infinite, per fortuna fuori onda me ne racconterà anche altre, così poi ve le riporterò. Però Sergio, a partire dalla tua esperienza di studioso, ti chiedo anche di guardare al presente e al futuro del Brasile, nel senso che molti oggi parlano in Brasile di una sorta di dittatura del populismo, no? Nel senso che c'è stata anche una degenerazione del lulismo in quella che è la presidenza Rousseff, che probabilmente poi verrà confermata nelle ormai prossime presidenziali autunnali. Ecco, è questo lo scenario corretto in cui possiamo leggere questo post Coppa del Mondo del Brasile? Io credo che la presidenza Rousseff sia molto indebolita da questa sconfitta calcistica. Aveva risalito un po', come dire, nel grado di popolarità all'inizio del mondiale, dopo le polemiche, dopo le grandi proteste dell'anno precedente, perché tutto sommato, diciamo, da un punto di vista logistico, organizzativo, le cose erano andate meglio di come si temesse. Però questa sconfitta avrà un significato, secondo me, epocale, cioè. E soprattutto si ripercuoterà sulle prossime Olimpiadi, perché io penso che, infatti, questo volevo chiederti, che se anche la Rousseff verrà riconfermata dalle prossime presidenziali, avrà come ultima spiaggia le Olimpiadi del 2016. E quei due anni, secondo me, saranno molti, tra il 14 e 16, saranno molto turbolenti per la sua presidenza. Perché... E pensi che anche il modo in cui questa sconfitta del Brasile è arrivato imporrà alla Rousseff un cambiamento di registro? Io penso di sì, perché effettivamente, diciamo, la scia di proteste dell'anno scorso, che erano fondate su l'aumento delle tariffe, lo sperpero per impianti megastadi, a fronte invece mancanza di assistenza sociale, sanitaria, e il fatto che appunto il Brasile sia sì un paese emergente con un'economia in crescita, ma che pare incominci anch'essa a subire qualche contraccolpo, influirà molto sulla prossima politica brasiliana dei prossimi anni. Beh, allora, il futuro vedremo se confermerà le analisi di Sergio Giuntini. Intanto vi suggerisco di sfogliare la sua rilettura del passato in questo Calcio e dittature, una storia sudamericana, edito da Sedizioni. Sergio, grazie per essere stato nostro ospite a Bordo Campo, e allora in bocca al lupo anche in vista di Rio 2016, a te e al Brasile. Certo, grazie a voi. A Bordo Campo, Diario Mondiale si conclude qui. Grazie a tutti i tecnici che tra il Brasile e Milano hanno reso possibile questo programma. Da domenica prossima ritroveremo il tradizionale A Bordo Campo, sempre la domenica alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, scaricare il podcast del programma da radio24.it e ascoltarci in streaming sempre dal nostro sito web. Ancora una buona giornata da Dario Ricci. Thank you.